ore 7 del mattino, spaccate. C'è l'Ariele negli studi di Rock FM. Una buona giornata a voi, miei eroi del mattino. A voi che avete il ritmo della terra, che vi svegliate senza il sole e andate a dormire senza il sole, come dei vecchi agricoltori. Ciao ragazzi, anche quest'oggi vi terremo compagnia. E un saluto un po' meno caloroso, ma altrettanto affettuoso, anche a coloro che invece ci ascoltano poi con calma nel corso della giornata, grazie a RadioRockFM.com. È venerdì 28 di settembre ed è con molto piacere che chiedo al mio regista Spadino, se gli va, di farci partire una sigla, visto che ce l'abbiamo ed è pure bella, diciamoci la verità. Una gran bella sigla, forse più bella del programma stesso, via! Pane, burro e rock and roll. Questa è la tua colazione rock. La tua colazione rock. La colazione che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll. Yeah, fino alle 9 in diretta. It every good indeed. Via! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ci siamo ragazzi, iniziamo un'ennesima avventura, targata pane, burro e rock and roll, ultimo giorno della settimana. È andata, ce la facciamo, da una Milano oscurissima, eccoli là, una coppia di uomini che fa jogging, questo è quello che intravedo dalla finestra illuminata dal mio lampione crepuscolare. Ci teniamo, eh? È una trasmissione che ci tiene a descrivere cosa succede, proprio anche ad immagini. Non ci fermiamo al mezzo radiofonico, solo suoni, solo voci. Siamo un programma tridimensionale. E come noi vi raccontiamo cosa accade fuori da questa minuscola finestra, ci fa piacere poi nel corso della giornata scoprire anche che cosa vedete voi, che cosa state facendo, dove state andando, cosa trasportate. Ed è sempre un piacere chiedervi un fiorino. La sveglia vi viene data ovviamente anche dal nostro Mister Trombetta e da Roberto Friccantoni, tra pochi minuti pronto come ogni giorno per l'almanacco. Ormai il risveglio di venerdì è sempre particolare, da quando abbiamo iniziato a occuparci di lotto. Spadino, te lo confesso, è qualche venerdì che mi sveglio pensando: oh, magari abbiamo azzeccato la tripla e smettiamo di andare in radio. Bene, intravedo già la mail di Carlo, il nostro tabaccaio di fiducia, colui che ci aiuta a giocare il lotto due volte alla settimana. È un lotto rock, un lotto che non esce, infatti come al solito non abbiamo vinto. Segnala, ci avviciniamo sempre prendendo un numero su tre, che è già qualcosa, però commenta, perseveriamo, visto che è diabolico. Ciao Carlo, prima o poi ce la faremo, ricordatelo, la nicchia vincerà. E si comincia con i Pretenders quest'oggi, Middle of the Road. Restate con noi, vi svoltiamo la giornata, è una promessa. Middle of the road, it's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bag or dropping the bomb on my street. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Love the road. big chunk of the blood of the world. The baby's just come with the scenery. Ah, come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Sanders, 7-8 minuti primi, chiamiamo a raccolta tutti i nostri gruppi d'ascolto. Stavo ragionando, meteorologicamente parlando, in queste ultime puntate vi parlavamo sempre di una Milano sotto il temporale. Se non ho capito male, si dovrebbe essere spostato un po' in giù, quindi potrebbe essere arrivato ai nostri amici toscani. Tranquilli, poi passa, noi siamo già passati sotto, ecco. Non ti piace questa immagine, Spadino, del temporale che passa prima su di noi e poi va giù dagli altri amici? Agli altri, quelli emiliani, non so. Lì non so che tempo fa. Fatecelo sapere se vi va. Io vi ricordo il nostro numero di SMS, attraverso il quale appunto raccogliamo giorno dopo giorno i nostri gruppi d'ascolto, l'orgoglio della nostra trasmissione radiofonica. Il numero semplicissimo, 335-100-7777. Abbiamo purtroppo in queste ore del mattino quello che in termine tecnico viene chiamato ascolto spezzettato. Nel senso che vi state svegliando, state andando al lavoro, vi state facendo la barba, quindi non riuscite a, spesso e volentieri non riuscite a seguire tutta la trasmissione, ma dei pezzettini. Quindi in tantissimi si lamentano di non ricordare numero di SMS, e lo ricorderò più e più volte, non me ne voglia chi lo sa già a memoria, e so che anche in questo caso siete in tanti. Da quando sta prendendo piede questa mania di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll anche nel corso della giornata su RadioRockFM.com, il mio problema mattutino è che mi sveglio con le mail di chi me le ha scritte ieri pomeriggio, quindi ho un pasticcio di interazione che dovremo trovare il modo di sbrogliare, e oltre ad un pasticcio di spam che non potete nemmeno immaginare, per il quale devo riuscire a pescare 20 mail tra 300 finte che di solito si riconoscono, però il titolo dello spam è facilmente individuabile. Sto diventando abile anche in questo. Si chiamano Asia, o meglio Asian. Questa è Hit of the Moment. Buona giornata Roberto Fricantoni, sa cosa quale le dico? Buona giornata, no, una straordinaria Io non ho giornata. Nessuna voglia di condurre Pane, Burro, Rock and Roll quest'oggi, perché sto pensando solo almeno tre che ci ho stampato qui nel cranio. Ma ci dica, vogliamo sapere. Mancano tre giorni. Mancano tre a domenica, giorni a domenica, contando anche oggi. Presentiamo la patente da vero rocker, forse. Colpo di scena. Schianto dal vivo, non resisto, non resisto. Accidenti, un'abbinata vincente, sì, travolgente, sì, sì. Schianto dal vivo e Pane, patente. Burro, rock and roll. Oh, incredibile. Faccia così, stempererei, tolga con le mani da dove ce le ha, stempererei il tutto con un bel almanacco del giorno. E l'aria condizionata. Mi dica di scendere dal soffitto. Scenda, maestro. Scenda dal soffitto, scusi. Mi ha esaltato moltissimo. Le do il foglio dell'almanacco di quest'oggi. Eccolo qui. Era il 1977, il 28 settembre, non mangi il foglio, quando la Stiff Records pubblica una compilation per collezionisti che si chiamerà Greatest Stiffs, annoverando tra gli altri brani di Nick Lowe, Damned Costello, Richard Hell e Motorhead. Questa è un'ottima notizia, sì. Ma Sbirci. Una pessima novità. Ovvero? nel 1991, bisogna dirlo, il 28 settembre, moriva il grande Miles Davis. Lei sa qual era il vero nome di Miles Davis? No. Era Miles Dewey Davis III. Indimenticato compositore jazz, trombettista e polistrumentista. Grande Miles Davis, un ricordo doveroso a inizio trasmissione quest'oggi. E chiuderei con un ricordo di qualche annetto fa legato al bel paese. Era il 2003, era il 28 di settembre, quando l'Italia rimase al buio a causa di un colossale blackout. Se lo ricorda lei? Ho un blackout proprio in questo momento. Non se lo ricordo. No, ma stavo per ricordare qualcosa che della cosa? Notizia precedente. Su Miles Posso Davis? Da... Sì, sono rimasto cosa? Un attimo indietro. Dica. No, volevo solo ricordare, sottolineare che Miles Davis ha suonato con il grandissimo, l'eccelso Charles Bird Parker. Charlie Parker. Sì, beh, ha fatto bene a ricordarlo. Beh, era una notizia colossale, dovevo darla prima del blackout, ma è venuto dopo. Viva Miles Davis! E beh, che c'è? Identify Yourself, Simple Minds. Cosa faccio? Me la rido. Me la rido perché dalla finestra qui che si tuffa in via Vittor Pisani a Milano vedo che gli sfortunati dell'altro lato della strada già hanno il lampione crepuscolare spento, mentre il nostro è ancora acceso. Caro lampione crepuscolare, nostro faro nella notte, nostro dio artificiale, nostra luce che guida i passi di Pane, Burro e Rock and Roll. Fino alle 8, eh? Na neanche, di solito alle 8 non le tira, si spegne un po' prima. Fa niente, però so che in molti là fuori sono affezionati a questa trasmissione solo per sapere se il lampione crepuscolare si è già spento oppure no. Non ancora. Orgoglio di questa trasmissione, invece, e lo leggo con molto piacere, il planning della giornata di Andrea, un universitario all'ascolto. Lui apre il Politecnico qui a Milano. Ore 7 ingresso aula dottorandi, ore 7:11 avvio PC, ore 7:12 avviato Internet Explorer per ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. E attenzione, l'orgoglio. Il motivo che alle 7:30 andrò all'Avis a donare il sangue. Cioè che si sappia, abbiamo all'ascolto gente che può donare il sangue. Fallo un po' anche per noi, caro Andrea. Che non so proprio se così al volo è d'amblè. Non so se siamo proprio pronti, ma se lo sei tu, noi siamo in squadra con te. Mi occupo di un altro grave problema, invece. Il problema dei genitori che fanno ascoltare questa trasmissione radiofonica ai figli. Figli, bambini, sappiatelo, siamo dalla vostra parte, siamo in squadra con voi. I vostri genitori sono da manicomio. Prima o poi vi salveremo, state tranquilli. Andrò a leggere una mail. Ciao, siamo Jacopo e Stefano, quelli che papà, quando facciamo i monelli, ci attacca al lampadario e ci fa cantare Ace of Spades. E già potrebbe scattare la denuncia, te lo dico subito. Oltre a ringraziarti perché ogni mattina tu e Fricantoni ci date la giusta carica per iniziare, vorremmo chiederti se puoi fare una strombazzata con la mucca Camilla per papà, che fra sabato e domenica si giocherà le finali nazionali di un gioco di carte Fantasy World of Warcraft e gli serve un po' di fortuna. Voi pensate a queste povere creature di Dio che hanno un padre che chiede una strombazzata con la mucca Camilla, tra l'altro, per un gioco di carte fantasy. Se puoi farlo tra le 7 e le 8 di venerdì sarebbe meglio, perché poi papà ci porta a scuola / asilo. Grazie di tutto e soprattutto della buona musica. So long, come dice un fumetto che legge papà. Firmato Jacopo e Stefano. Post scriptum. Stefano non sa leggere, ma è d'accordo con me. Contenti voi. Viva i bambini che ascoltano! It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on shame. It's fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freaking show. Take a look at the long man leaning on the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best.